La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Bentornati a questa nuova puntata della Quota Rosa, a questa nuova serie. E allora, le ragazze di Pechino, le splendide ragazze di Pechino, la più splendida di tutte, Valentina Vezzali, che cosa vuol dire essere entrata nella storia, Valentina? Ma essere entrata nella storia significa sicuramente aver lasciato un segno indelebile nella storia del sport, ma credo nella storia dello sport in generale, dimostrando che con l'impegno e la costanza si possono raggiungere traguardi veramente impensabili per un arco di tempo abbastanza lungo. 3 ori in 3 Olimpiadi diverse, Sydney, poi abbiamo avuto Atene e poi infine Pechino. Oggi tu hai 34 anni, allora la prima Olimpiade avevi 24 anni, che cosa è cambiato dentro di te? Ma la prima Olimpiade Atlanta 96 ero una 22enne, ero una bambina, una ragazzina, e sicuramente oggi sono una donna, sono una moglie, sono una mamma, quindi credo di aver percorso un tratto della mia vita abbastanza importante in questo decennio che mi abbia fatto maturare e che sicuramente mi ha permesso di essere ad oggi una donna abbastanza completa. Che cosa pensi quando stai combattendo, quando hai di fronte la tua avversaria, quando devi dare le stoccate con il tuo fioretto? Ma guarda, se quando ho la maschera e mi trovo a dover fronteggiare un'avversaria, penso, sono toccata e sicuramente perdo, nel senso che nel momento in cui mi trovo ad affrontare la parte agonistica cerco di essere concentrata e di mettere in pratica tutti gli insegnamenti e la mia scherma. In quel momento, quando entro in una sorta di trance, riesco veramente a fare grandi cose. Quanto allenamento c'è dietro una sfida? Quanta pedana e che altro tipo di preparazione c'è per concorrere al fioretto? Ma io credo che nella scherma, come in tutti gli altri sport, oggi come oggi, occorra veramente una preparazione molto di qualità molto elevata. Io mi alleno sulle 5-6 ore al giorno per tutti i giorni, tranne la domenica, ma normalmente fine settimana siamo fuori in giro per il mondo a disputare delle gare. Quindi è un impegno notevole, ma che per me non è pesante, perché mi piace allenarmi, mi piace fare il mio sport e ho la fortuna di fare quindi una cosa che amo. Senti, Valentina, hai incontrato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ma avevi anche incontrato il precedente Presidente della Repubblica, questo è il tuo secondo? Sì, è il mio secondo, ma devo dire che con Ciampi e Napolitano c'è stata data anche una sorta di amicizia, però devo dire che nel 96 c'era anche Scalfaro, quindi ho fatto ben 3 Presidenti della Repubblica. Si può fare la mamma e la campionessa, come tu hai dimostrato, perché hai ricominciato a vincere subito dopo la gravidanza, era stato un tuo scopo che sei riuscita a raggiungere. Parteciperai anche alle prossime Olimpiadi? Io ce la metterò tutta per arrivare a Londra 2012 e credo fra pochissimi giorni riprenderò a muovermi, anche perché un mese di tempo di stop è veramente tantissimo per un atleta, e sicuramente facendo una preparazione mirata spero di riuscire ad affrontare questo quadriennio non più da giovanissima, però sicuramente con quella maturità che mi permetterà poi di affrontare un evento importante come quello olimpico. Un'ultima domanda: perché gli uomini non sono andati bene nella scherma come le donne a queste Olimpiadi? Ma io devo dire che nella scherma i risultati in occasioni importanti come mondiali e olimpiadi vengono sempre. Siamo uno dei pochi sport che non tradisce mai, e forse perché la scuola fa scuola, e dove c'è una grandissima tradizione si lavora in un certo modo, alla fine non possono che non arrivare i risultati. Però è mancato l'oro per gli uomini. Ma diciamo che Tagliariolla ha vinto un oro olimpico nella squadra maschile individuale, era 42 anni, credo più che mancava, o addirittura 60, non lo so, questo bisogna chiarire agli spadisti, che mancava nella squadra maschile. La squadra maschile ha conquistato un bronzo, Montano non avrà vinto nulla, una medaglia individuale, però la squadra hanno preso una medaglia, quindi in quasi tutte le armi abbiamo comunque conquistato una medaglia. Ovviamente ho parlato del fioretto maschile, no? Fioretto che è mancato, quello l'oro che noi ci speravamo. è mancato l'oro, poteva vincere tranquillamente tanto, ma è mancato forse l'oro di Baldini, Andrea Baldini, che purtroppo non è riuscito ad arrivare a Pechino per le questioni di doping che si sono verificate. Io mi auguro che questo ragazzo possa dimostrare la verità, la sua innocenza, e che possa rifarsi alle prossime Olimpiadi. Allora, in bocca al lupo Valentina, e noi speriamo che tu possa trascinare tutta la squadra femminile e anche la squadra maschile, perché a questo punto hanno più bisogno loro di voi. Va bene? E va buon bene. Allenamento! Grazie, un abbraccio. Arrivederci. Allora, mi scuso con le radioascoltatrici e con le altre nostre ospiti che sono in linea con noi, ma Valentina Vezzali, come avete sentito, doveva prendere un aereo. Do il benvenuto ad un altro oro olimpico femminile, Giulia Quintavalle, buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuta alla Quota Rosa. E la dottoressa invece Giovanna Berutti, dirigente dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI, responsabile reparto clinica e nutrizione. Buongiorno a tutti. E poi un altro oro, che è stato un oro abbastanza particolare, Chiara Cainero, il tiro buongiorno. A volo, buongiorno a tutti. Allora, intanto io vorrei partire anche da un argomento che volevo affrontare. Secondo alcuni studi recenti, l'allenamento per le campionesse olimpiche, ma non solo, anche per le sportive donne, cioè le ragazze che cominciano a fare sport, deve essere un po' differenziato. Dottoressa, perché secondo una recente inchiesta che aveva fatto Panorama, si potrebbe verificare invece che un allenamento troppo maschile possa poi avere degli effetti sbagliati su un corpo femminile. Lei ci conferma questa teoria? Ma guardi, in realtà l'organismo femminile è un organismo potente tanto quanto quello maschile, ovviamente con delle differenze. È chiaro che l'apparato muscolare è più potente nel maschio piuttosto che non nella femmina, ma le risorse cardiocircolatorie e respiratorie sono eccezionali. Basti pensare a quello che riesce a fare un organismo femminile con la gravidanza, quando supplisce alle proprie esigenze a quelle di un altro essere. Quindi l'allenamento è evidente che è proporzionato, ma non perché la donna sia più debole sotto certi aspetti, ma perché vanno valorizzate alcune sue caratteristiche. La donna avrà maggiore elasticità, avrà maggior leggerezza, avrà maggiore forza assoluta, ma la forza relativa, cioè proporzionata al proprio peso corporeo, può essere sicuramente sviluppata. Quindi non ci sono danni particolari per quello che riguarda l'organismo femminile, sono le stesse accortezze ma riportate alle differenze anatomiche e fisiologiche che ci sono. Quindi lei dice questa ricerca di Panorama, lo sport che fa male, attenzione alle donne che svolgono attività fisica come i coetanei maschi, già da adolescenti, però bisogna avere degli allenatori anche consapevoli del sesso dell'atleta. Appunto, come dice lei, come i coetanei maschi, è evidente che se è previsto anche il rugby femminile non sarà lo stesso allenamento e di fronte non ci saranno avversari, cioè non sarà mai una ragazza del rugby che si confronta con un maschio. No? Quindi, e poi adesso sentiremo anche Giulia Quintavalle, lei è chiaro che fa un allenamento non molto diverso a quello che fanno i maschi nel judo, ma è evidente che lei lo farà proporzionalmente per incontrare avversari del suo peso e con le sue caratteristiche. Poi in allenamento magari in palestra si scontrerà anche con qualche ragazzo, ma in competizione e le sue finalità sono previste per incontrare persone dello stesso sesso, e quindi è chiaro che è tutto proporzionato ed è tutto registrato. Certo, se una ragazza, ripeto, fa l'allenamento uguale a quello di un maschio, beh sì, la sua struttura, soprattutto articolare, eccetera, non è fatta per sopportare questi carichi, ma per dei carichi più proporzionati. Un'ultima domanda, poi daremo la linea alle atlete. Dottoressa, ci sono degli sport femminili e maschili? Degli sport in cui le donne riescono maggiormente e gli uomini di meno, e viceversa? Ma guardi, ci sono alcuni sport che sono completamente femminili o maschili. Ad esempio, le faccio un esempio, la ginnastica ritmica ad esempio esiste solo nella specialità femminile, però gli altri sport sono interpretabili in un senso o nell'altro. Come le dicevo prima, chiaro, c'è la pallanuoto maschile e la pallanuoto femminile. È evidente che per esempio una ragazza che fa calcio, forse uno, la ragazza si aspetta più di vederlo piuttosto che giocare a calcio, fare un esercizio di ginnastica o di nuoto sincronizzato, ma in realtà realtà sono bravissime le donne in qualsiasi disciplina. Se voi pensate appunto adesso con la campionessa in cui parlerete fra poco del tiro a volo, che fino a pochi anni fa l'esempio era sempre quello dell'uomo con il fucile imbracciato, ma in realtà una donna riesce ad essere femminile anche imbracciando un fucile, e quindi diciamo la tenacia, la capacità di performance, l'impegno, la voglia di riuscire fanno sì che le donne possano esprimersi al meglio in tutte le discipline sportive. Giulia Quintavalle, oro judo, quanti chili? 57? Sì, 57 chili. Ecco, quanto sei alta, Giulia? Ti posso dare il tuo? Sì. Sì, 1,73 m. Quindi sei abbastanza magrolina però, perché... Sì, abbastanza. Cioè... Sì, però diciamo sono in peso solo il giorno della gara, poi gli altri giorni sono un po' di più, peso 60 kg normalmente. Quindi voi dovete essere in peso in quel momento. E quindi... Sì, la mattina della gara. E che cosa comporta? Che praticamente 15 giorni per 15 giorni c'è una dieta ferrea? Vabbè, ci mettiamo a dieta, poi dipende da quanto un atleta deve calare. Io per esempio devo calare 3 kg e mi metto a dieta 2 settimane prima, però non è che è una dieta dura, cioè cerco di limitarmi nel mangiare e mangiare cose giuste senza mangiare tanti magari dolci. Quindi c'è uno sforzo sicuramente rispetto a quello, sì, che è il tuo peso naturale, che sarebbe 60 kg per 1,73, insomma anche, sì, sempre molto magra. E, sì. Cosa vuol dire essere una lottatrice di judo? Come ti guardano gli uomini? Hanno un po' paura? Cioè, fuori dal judo sono una ragazza abbastanza tranquilla e quindi penso di non dare questa impressione. Poi vabbè, a volte la gente può pensare che sia uno sport violento, ma assolutissimamente non è così. Come hai iniziato? Io ho iniziato quando avevo 5 anni e mi hanno portato i miei genitori in palestra perché lo praticava mio fratello più grande, e così ho cominciato e non ho mai smesso perché mi è piaciuto molto. Un consiglio però alle donne che ci sentono, che ci ascoltano, per esempio, se tu, chiaramente tocchiamo ferro, dovessi essere aggredita per strada, questo sport comporta anche il fatto che tu ti sappia difendere? Sì, sicuramente mi saprei difendere meglio di una ragazza che magari non pratica uno sport o un'arte marziale, però voglio dire, sono sempre una ragazza e quindi a seconda di chi c'ho davanti non è che posso fare più di tanto, perché la differenza fra uomo e donna si sente molto, insomma, a livello fisico. Ecco, questo è importante capire, perché molto spesso poi, sì, ci sono dei falsi miti, no? Per questo te l'ho chiesto. Infatti. E che cosa... Sicuramente mi so difendere meglio di una ragazza che non pratica questo sport. Veniamo adesso a quello che è successo a Pechino. A un certo punto c'è stata questa tua mossa che ha steso al tappeto l'avversaria, no? E era la prima volta che una donna vinceva un oro nello judo per quanto riguarda l'Italia? Questa è stata la prima volta che una donna vince una medaglia d'oro alle Olimpiadi nel judo. È stata una bellissima soddisfazione. Io sono felice di essere stata io e niente, cercherò di andare avanti e di fare altrettanti risultati di questo livello. Come sono andati invece i tuoi colleghi uomini? Diciamo che qualcuno doveva fare meglio perché magari aveva già risultati e quindi poteva dare una medaglia, però come tutti gli sport le Olimpiadi sono un appuntamento un po' particolare, magari chi è più medagliato magari ha più tensione addosso perché deve fare bene e spesso sbaglia la gara. Comunque intanto le donne sono andate meglio. Chiara Cainero, oro, sì, nel tiro a volo. Allora io faccio una domanda profana: qual è la differenza, sì, tra tiro a volo e tiro a piattello? È la stessa cosa. Ecco. Quindi, è la stessa identica cosa. Quante ore tu ti alleni al giorno sparando? Sì. Sì, quanti, sì, poligoni di tiro ci sono in Italia? È facile, è difficile? Che cosa comporta? Allora io mi alleno principalmente quasi tutte le mattine, impegni permettendo. In questo periodo vabbè sono abbastanza piena di impegni, però comunque una gara da preparare fino a mezz'ora fa ero ad allenarmi, quindi io dedico quasi tutta la mattina e se posso ritorno anche di pomeriggio, poi una parte la dedico alla preparazione fisica. È uno sport insomma tanto facile non è, da fuori sembra facile ma in realtà richiede molto allenamento, molto molta esasperazione di quello che dobbiamo fare, ma è molto ripetitivo, quindi bisogna allenarsi parecchio. E poligoni in Italia ce ne sono quasi in tutte le regioni, quindi non dovrebbe essere difficile trovarlo, insomma. Ecco, generalmente quando uno pensa appunto al fucile, come diceva la dottoressa Berutti, si pensa a un uomo, invece l'oro è venuta da una donna questa volta. E quando tu hai iniziato era difficile andare per esempio al poligono di tiro, quante donne ci sono oggi, quante donne c'erano allora? Ma allora, in Italia siamo veramente poche, non siamo molte donne che praticano questa attività sportiva, poi invece io quando vado all'estero mi scontro a fare mondiali con una partecipazione di 50-60 donne, quindi all'estero insomma ce n'è parecchie di donne che praticano questa attività sportiva, in Italia ce n'è un po' di meno, questo è vero che ce n'è, infatti quando io arrivavo all'inizio al campo di tiro una ragazzina a 15 anni col fucile mi guardavano, no? Un po' stranamente gli uomini che erano lì, però insomma poi hanno iniziato a conoscermi, adesso vado tranquillamente senza nessun tipo di problema. A me ha fatto piacere, cioè io sono felicissima di averlo vinto, sono felice di che passi questo sport prettamente maschile fatto da una donna, no? Quindi il fucile è, voglio dire, la portata sia dell'uomo ma anche della donna. Ecco, quindi è bello che arrivi questo messaggio, insomma hanno definito la signora dei piattelli, la signora dei fucili, questo è bello, mi hanno anche detto che ho risultato con una certa eleganza, qualcuno ha detto, quindi insomma, voglio dire, il fucile non è solo maschile ma anche femminile. Particolarmente, per esempio, tu sei favorevole al porto d'armi oppure lo ritieni solo uno sport? No, allora, io ho un porto d'armi prettamente a uso sportivo perché comunque non vado a caccia, quindi non mi interessa fare il porto d'armi a uso caccia. Io quello che farei personalmente, farei magari delle visite mediche per il porto d'armi a uso sportivo molto più severe, visto quello che si sente in giro, no? Sull'uso delle armi, su magari cose brutte che possono capitare. Quindi io quello che farei, farei delle visite ancora più fiscali per le persone che vogliono richiedere porto d'armi uso sportivo, questo sì, questo lo farei. Allora, i piattelli partono, sono due e vanno colpiti uno presso l'altro, giusto? Sì. Quanti tiri in una gara? Allora, le donne, la gara delle donne si articola su un giorno solo, spariamo 75 piattelli per il turno di qualificazione, poi le migliori 6 fanno l'ultima serie finale da 25 piattelli, quindi la gara in totale su 100 piattelli. Ti è mai capitato di aver preso 25 piattelli su 25 piattelli e 75? Ti è capitato? No, il mio record è 74, non ho mai fatto 75 su 75 in gara, ho fatto 90, il mio record personale nelle gare è 97, ho fatto anche un 97 e sono arrivata seconda, perché quella prima ha fatto 98, per questo significa che per quanto riguarda il tiravolo differenza uomo-donna non ce n'è. Cioè a Barcellona vinse una donna cinese battendo tutti gli uomini alle Olimpiadi, le vinse lei, da quella volta hanno separato la gara maschile dalla gara femminile alle Olimpiadi. Ah, e quindi sì, anni fa c'erano le russe molto molto molto forti, spesso sparavano in gara con gli uomini e vincevano. Ah, ecco, quindi diciamo così, questa volta sono stati separati gli sport per il problema opposto, perché qui vincono le donne. Che cosa, se le donne sono più brave degli uomini, che cosa occorre e che cosa succede quando per esempio tu ti alleni, ti scarichi, scarichi l'aggressività, ti dà concentrazione? Sì, beh, insomma serve un insieme di cose, no, aggressività no, bisogna andare concentrati, allenarsi con calma, cercare di dare il massimo in quelle 2-3 ore, a volte si fanno allenamenti più intensi perché magari fisicamente ti senti meglio, a volte ti alleni su insomma 100-125 piattelli fatti bene con più tranquillità, per esempio per me adesso è un periodo di forte stress per un insieme di cose, non riesco a sparare tanto come quando prima di partire per le Olimpiadi, perché mentalmente sono proprio stanca e anche fisicamente ho dei ritmi un po' accelerati, insomma. Poi il fucile a quanto pesa? Pesa sui 3,1 kg, però non è un peso, comunque è bilanciato, lungo l'attrezzo è bilanciato davanti e dietro, quindi insomma si riesce a reggere il peso del fucile, non è, a meno che uno non sia mingherlino, magro magro, che cade a terra quando spara, perché a noi non dobbiamo essere proprio magrissime come che sto un maratoneta, un fisico normale che deve sopportare comunque un carico di lavoro pesante. Giulia Quintavalle, che cosa provi dopo un allenamento, che cosa provi dopo una gara, qual è il messaggio che vuoi mandare alle donne, anche agli uomini in ascolto, la bellezza dello sport? Vabbè, questo sport, anche questo sport è abbastanza faticoso, però dà tante soddisfazioni, l'importante è fare il judo come tutti gli altri sport con serenità. secondo me questa è la cosa più importante. Io l'ho sempre fatto così, l'ho fatto con semplicità, serenità, e mi sono sempre divertita. Poi ho ottenuto questo risultato che per me è il più grande risultato che abbiamo mai avuto fino ad ora, e quindi sono molto contenta. Il consiglio che posso dare ad altri ragazzi è di praticare questi sport con serenità e di non perdere mai l'obiettivo e di non mollare mai. Allora, noi chiaramente volevamo chiudere con la dottoressa Giovanna Berutti, dirigente dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. Allora, perché le donne, le nostre atlete, sono andate meglio dei nostri atleti alle Olimpiadi? È stata un'Olimpiade particolarmente rosa questa, in effetti, ma evidentemente questo è il risultato di anni di impegno fatto sempre quasi, diciamo, in seconda battuta, sempre i maschi avanti, ma le donne si sono sempre impegnate, si sono sempre allenate con tenacia, e chiaramente piano piano il movimento anche di base si è allargato, mentre fino a pochi anni fa le praticanti donne erano meno, no, rispetto ai ragazzi, adesso il bacino di partenza è un pochino più ampio, e quindi evidentemente anche qui migliorano le qualità dell'allenamento, migliorano le qualità di prestazione e poi vengono fuori più campionesse. Poi queste campionesse in particolare hanno dimostrato, adesso a parte Giulia e Chiara, diciamo, hanno dimostrato anche altre, ma soprattutto questo vale per Valentina ed altre, di essere particolarmente longeve. Quindi vuol dire che la donna dimostra una tenacia nel mantenere questo stile di vita particolare, che è quello che di un atleta che, diciamo, ha la giornata molto molto impegnata, e molte di queste ragazze, di queste atlete sono anche mamme, hanno anche la famiglia, quindi riescono a conciliare non solo l'attività sportiva con il lavoro, ma anche con la gestione della famiglia e quindi dei figli, di tutto quello che questo comporta. Quindi evidentemente, secondo me, è proprio l'impegno e la voglia di farsi avanti e la voglia di vincere, la tenacia, che ha portato le donne ad avere questi grandi risultati, e penso che sarà così anche in futuro, e continuerà sicuramente su quest'onda. Un'altra protagonista di quest'estate è stata ed è tutt'oggi Sarah Palin, governatrice dell'Alaska, salita all'attenzione della cronaca proprio perché John McCain l'ha scelta come vicepresidente candidato repubblicano alla Casa Bianca. Allora, per parlare di Sarah Palin che arriva e Hillary Clinton che va via, perché questo è stato un po' l'esito nella campagna elettorale americana, almeno per quanto riguarda le candidate donne, abbiamo con noi Fiamma Nierenstein, vicepresidente Commissione Esteri, e poi abbiamo Giovanna Melandri del PD. Giovanna Melandri, Sarah Palin, che impressione le fa? Lei è anche cittadina americana, se non sbaglio. Sì. Da Hillary Clinton a Sarah Palin. Voglio dire subito una cosa, cioè secondo me la candidatura di Sarah Palin è un fatto positivo per la democrazia americana e anche per le donne americane, da questo punto di vista, che credo ci liberi finalmente un po' tutte dalla semplificazione del vota, del donna vota donna, e della identificazione con una candidatura femminile tout court. Cioè, quello che voglio dire è che le caratteristiche politiche di questa signora, che sicuramente è una signora molto, molto forte, molto speciale a suo modo, sono talmente rappresentative di una cultura che è la cultura dell'estremismo della destra conservatrice e anche della destra religiosa americana, che è difficile che molte donne americane che oggi considerano quella cultura e quella politica come forse il primo imputato dal punto di vista simbolico, naturalmente, di un modello sociale che non le aiuta a essere donne, madri, magari con una bella famiglia numerosa come ha la signora Palin, che è così rappresentativo di un modello così netto sul tema della, non so, del possesso delle armi, sul tema della contrarietà all'abolizione della pena di morte, sui temi della politica internazionale, poi magari di questo parleremo, ci confronteremo anche con Fiamma Nera, anche saluto. Quello che io considero molto positivo di questa candidatura è che in qualche modo è una donna che libera le donne, che io spero, naturalmente mi auguro anche molto che le elettrici americane sentiranno questa libertà, come dire, dal vincolo di identificarsi con una donna. In più credo che le legioni di Hillary Clinton, le elettrici, le sostenitrici, le ammiratrici di Hillary Clinton, per le quali si è detto, io credo erroneamente, McCain ha scelto Sarah Palin come vicepresidente, faranno molta fatica a identificarsi con lei e quindi a votarla. Piuttosto la candidatura di Sarah Palin come vicepresidente è una candidatura, come posso dire, rischiosa dal punto di vista dell'affermazione di Obama e dei democratici in quegli stati battleground dove in qualche modo si giocano il risultato finale delle elezioni americane, come per esempio il Michigan, l'Ohio, il Pennsylvania, che sono stati in cui in effetti i proprietari di armi e anche i cristiani radicali, diciamo l'estremismo religioso, ha un certo peso. Quindi io penso che lei sia stata scelta da McCain più che per sedurre e conquistare l'elettorato femminile, per rimotivare quell'elettorato della destra estrema che milita a favore del possesso delle armi, che milita, certo, insomma, praticamente poi è una candidatura che piace più agli uomini fondamentalmente. Sì, questo l'abbiamo già visto anche dai sondaggi in questi giorni. In effetti. Allora diamo la parola a Fiamma Nirenstein, PDL, vicepresidente commissione esteri. Lei come vede Sarah Palin, una donna comunque molto contrastata e molto con caratteristiche anche difficili, per esempio in politica estera ha già detto che per difendere la Georgia è disposta a fare la guerra alla Russia, una donna che fino all'anno scorso non aveva mai lasciato gli Stati Uniti. Beh, guardi, dunque è logico che Sarah Palin sia contrastata dai suoi nemici politici, mi pare la cosa più logica, più ovvia che ci sia, così come Joseph Biden, il vice scelto da Obama, sia contrastato dai suoi nemici politici, quindi insomma io non ne farei un assoluto universale, ecco, di questo fatto. Invece quello che uno può dire, diciamo, è come si pone soggettivamente di fronte a questo fenomeno. Io l'ho trovato un fenomeno grandioso, sinceramente, anche perché mi è capitato di vivere quel discorso, il discorso che è stato fatto alla convention, in compagnia di amiche e amici americani, tutti appunto hanno detto she's a sensation, è una star questa donna. Perché è una star? È una star per la sua per il modo in cui rompe tutti gli schemi del disegno classico tradizionale della politica. Questa, nonostante abbia fatto la politica per tanti anni, perché prima ha fatto il sindaco, poi ha fatto governatore, cioè ha fatto tutto un curriculum locale su cui naturalmente ora si fanno le pulci, è logico che si facciano, così come si fanno a Biden, così come si fanno a Obama e come si fanno a McCain, altre ne sentiremo, vero, perché è logico che sia così. Io vedo in questa donna un personaggio che ha delle caratteristiche, come posso dire, disarmanti, non credo affatto che piaccia di più agli uomini che alle donne, proprio per niente. Trovo questo uno slogan, sinceramente, anzi, le donne sono particolarmente incantate, stavo dicendo prima da che cosa, da quello sguardo sincero, diretto, in cui lei, questa Palin, è una che evidentemente, insomma, o la racconta molto bene, oppure davvero è una persona che ti guarda negli occhi, dice quel che pensa, non ha paura di nessuno, non ha paura di dire che le piacerebbe moltissimo, nonostante la sua esperienza relativamente breve, anche data la giovane età, insomma, di politica, fare il vicepresidente degli Stati Uniti. e io guardi questo elemento conservatore e lo trovo perfettamente legittimo. L'America è un grande paese diviso in un bipartitismo in cui ci sono i democratici e i conservatori, e il fatto che siccome una signora è conservatrice deve essere per questo meno donna, io proprio non lo vedo, ma nemmeno da lontano, ecco, nemmeno col cannocchiale. Ecco, lei però, facendo parte del PDL, del Popolo della Libertà, diciamo che potrebbe rappresentare i conservatori italiani, no? Si riconosce in una Sara Palin a livello politico? Assolutamente sì, io assolutamente sì. Se ha delle domande più specifiche me le faccia. Poi, per esempio... La Sara Palin è una cristiana, io sono ebrea, quindi abbiamo diversi, vede. Ma per esempio il fatto che la Sara Palin, che ha risposto in maniera così diretta, elementare, ha detto la NATO in effetti è nata proprio per portare aiuto ai paesi che vengono attaccati, e effettivamente se la Georgia venisse di nuovo attaccata e fosse all'interno della NATO sarebbe logico che entrasse in guerra, perché poi il discorso era più complesso ed era questo, parlava della NATO. Però ecco, detto questo, il fatto che una persona sia profondamente adontata e scandalizzata nel più intimo dal fatto che la Russia abbia spaccato, sia entrata armata, abbia occupato, abbia violato tutti i diritti umani, abbia violato tutti i diritti di un paese autonomo come la Georgia, e se la prenda con tutti quanti, guarda caso, i paesi della sua area che hanno imboccato una strada di democrazia e filo occidentale, io capisco benissimo che lì ci sia un sussulto, no? Lei no. Sì, no, io le voglio fare una domanda. Lei ha parlato poco, poc'anzi, di religione. Per esempio, Sara Palin è una cristiana molto, molto conservatrice. Per esempio, è contraria all'aborto ma favorevole alla pena di morte. A me sembra una contraddizione in termini. Lei, però, le faccio questa domanda. Come rappresentante del Popolo della Libertà condivide questa scelta? Sono contraria alla pena di morte e favorevole alla legge 194. Ho già dichiarato in più occasioni. Detto questo, ritengo perfettamente legittimo invece che la Sara Palin abbia un altro tipo di atteggiamento. A me non dà noia per niente, non considero che questo riporterà indietro le donne neanche di un centimetro. Penso che una figura come la sua, va bene, chiamata ad essere vicepresidente degli Stati Uniti, è un magnifico balzo in avanti per la condizione femminile. Giovanna Melandri del PD, chiaramente qui analizziamo un personaggio abbastanza particolare in un contesto americano che ha già dichiarato di essere contraria all'aborto, favorevole alla pena di morte, favorevole alla National Rifle Association, l'associazione appunto delle armi, la lobby delle armi negli Stati Uniti. Allora, il grande balzo in avanti per simbolico, storico per le donne è sicuramente anche il frutto della candidatura di Sara Palin alla vicepresidente, è il fatto che una donna di grandissima forza come Hillary Clinton sia corsa per fare il presidente e sia arrivata a un centimetro, a pochissimo, dalla possibilità di essere lei la candidata democratica. Cioè, io penso che il balzo in avanti per le donne, per tutte le donne repubblicane, democratiche, americane, diciamo pure da un punto di vista simbolico, questo è qualcosa che riguarda anche noi, si ottiene nel momento in cui delle grandi, autorevolissime e forti figure, come anche Sara Palin, io non voglio negare questo, balzano agli onori della scena nelle prime fila, insomma, della scena più importante della politica mondiale. Detto questo, però, e qui è già non condivido le cose che diceva prima Fiamma, Nirenstein, per me è impossibile, come dire, prescindere nel giudizio sul politico che si deve esprimere su una candidatura, prescindere da quello che queste donne autorevolmente pensano. Cioè, io quello che penso, che il vero salto in avanti le donne lo fanno e lo stanno facendo in virtù del fatto che non vengono considerate un mucchio unico e indistinto, e che la caratura, il profilo, le idee, il progetto di società, la politica che le donne rappresentano sono decisive per decidere se ci piacciono o meno. Allora, da questo punto di vista, personalmente non posso dire non mi importa che Sara Palin sia una a favore della pena di morte senza nessun tentennamento e nessuna riflessione autocritica, sia un antiabortista radicale, sia una che promuove l'astinenza sessuale prima del matrimonio. Mi interessa che lei, da governatrice dell'Alaska, ha tagliato la spesa sociale per il sostegno alle madri singole. Allora, che modello di società rappresenta? Poi sulla politica internazionale potremmo dire tante cose, lei è una che ha sostenuto, come tutti i repubblicani peraltro, analogamente a McCain e a tanti altri, un'idea muscolare, un'idea aggressiva del ruolo internazionale degli Stati Uniti, che secondo me, secondo il mio modo di vedere, ha questa idea muscolare della presenza militare degli Stati Uniti nel mondo, secondo noi, secondo i democratici, ha molto corroso, diciamo, una simpatia, una capacità di anche egemonia, diciamo così, degli Stati Uniti nel mondo, ma questo è un altro tema. Obama con questa storia del rossetto? Sì, Obama è uno scivolone. Io devo dire, ieri quando ho letto i giornali italiani ho fatto un salto sulla sedia, non mi è piaciuto, ho guardato bene, ho capito come lui ha corretto il tiro dicendo che non stava parlando della panica, stava parlando di McCain. Poi segnalo solo un punto, in tutti i giornali internazionali questo scivolone, che io considero uno scivolone, è stato molto molto meno evidenziato rispetto alla stampa italiana. Quello che il senatore Obama voleva dire è i cambiamenti sono o ci sono profondamente o se sono di facciata, nel senso che appunto il rossetto è un cambiamento di facciata, non valgono. Allora, Fiamma Nera Stein, abbiamo sentito, no, questo scivolone, diciamo, di Obama su lipstick, il pig, il maiale, no? Ma mi sembra che lo scivolone più grande di Obama è che c'aveva una grandonna a disposizione come la Clinton, però non l'ha voluta nominare vicepresidente. Questo forse è la cosa più importante da notare, più ancora delle così di parole, che nella rabbia di vedere improvvisamente sorgere una stella che contrasta tutta la passione mediologica che lui aveva suscitato, gli può essere uscita. Io infatti queste battute che poi si fanno in campagna elettorale, sì, vedrai che poi ne verrà una da parte della Palin nei confronti di Obama, cioè questo sinceramente a me non mi fa né qua né là. Allora, intanto vorrei si pigliasse buona nota di questo fatto, che insomma bene o male, McCain ha fatto una donna vicepresidente nel caso vinca le elezioni, Obama non l'ha fatto. Io sono d'accordo con la mia amica Giovanna Melandri del fatto che i contenuti politici di una donna determinano quello che sarà il suo contributo alla crescita femminile nella società. Non vedo proprio perché se una donna non è di sinistra non debba dare un grande contributo positivo invece alla società. Chi impedisce che la Palin, pur essendo una persona che evidentemente crede nel matrimonio in maniera, anche se avrà fatto qualche tradimento, ma insomma questo non lo so, poi non se ne sa, è un tema che lo lasciamo al gossip che non appartiene, mi pare, fortunatamente a questo programma. Mentre invece io direi questo: non sono affatto d'accordo che una donna porta un contributo alla condizione delle donne alla società se è di sinistra, punto, a capo. Penso che una donna possa portare dei grandissimi contributi alle donne anche se per esempio è contro l'aborto. Per quanto sia poi la Palin c'ha un elemento diverso dalla Clinton, intanto sinceramente a me lo sguardo della Palin, visto che ne abbiamo parlato tutte e due, mi pare uno sguardo molto più trasparente in qualche modo. La Clinton ha uno sguardo che giustamente, dato il lavoro che ha fatto per tanti anni, ovvero quello della moglie del Presidente degli Stati Uniti, è uno sguardo più politico, i suoi sorrisi sono più politici, definita nei suoi comportamenti, mentre la Palin mi sembra ancora un personaggio molto fresco. Quanto alla inoltre la Clinton, per favore, non dimentichiamoci, vero, perché ha fatto per 8 anni la moglie del presidente e quindi c'è un uomo nella sua vita, c'è un grande uomo nella sua vita, che è Clinton. Invece questa signora c'ha un marito che il massimo che ha fatto ha vinto delle corse sul ghiaccio coi cani, che mi pare una cosa stupenda, io lo trovo molto affascinante, lui è un uomo molto molto carino, mi è piaciuto molto quando lei ha detto ci siamo incontrati alla high school e da allora he is my guy, è una molto bellina questa cosa, ma certo non c'è un uomo che sia un drive nella sua vita fondamentale, mentre invece in quella della Clinton c'è, questo fa una differenza, le donne Lo sentono, per me è una cosa senz'altro molto importante. Quanto la difesa degli Stati Uniti d'America di fronte al terrorismo, io lo trovo una cosa fondamentale e basilare. Credo che faccia benissimo a ribadire questi temi e credo che effettivamente noi viviamo in un mondo in cui ci vuole il coraggio di vedere i pericoli laddove sono e certo senza immaginarceli, ma essendo pronti ad affrontarli, beh, lei lo è ed ama molto il suo paese. Che male c'è in questo? Allora, una domanda flash con una risposta flash per Fiamma Nera e Stein dopo la discesa di Sarah Palin in campo. Chi vincerà le elezioni americane? McCain vincerà senz'altro, intanto è già passato di 4 punti più avanti, poi perché alla fine della giornata, insomma, ancora diciamo, noi viviamo in questo mondo una situazione per cui ieri giustamente il Herald Tribune scriveva alla fine colui che vincerà le elezioni è quello che può impedire che a Manhattan venga esplosa una bomba sporca di Osama Bin Laden. Giovanna Melandri, c'è il rischio che Barack Obama non vinca le elezioni dopo la discesa di Sarah Palin? Ma io penso che la gara è molto, come dire, molto vicina, come si suol dire, i due candidati sono, cioè è una gara aperta, io naturalmente mi auguro che vinca Obama, sono convinta che ancora nulla è come dite, detto o deciso, certamente in questi sondaggi che circolano c'è ancora molta incertezza, c'è un elemento che, ecco, forse su questo non sono d'accordo con Fiamma, cioè penso che i sondaggi difficilmente possono registrare quel residuo di pregiudizio razziale che anche in un paese come gli Stati Uniti, un grande paese come gli Stati Uniti, tuttavia permane e resiste. La corsa è aperta, indubbiamente McCain e Palin sono diventati un ticket più forte dopo la candidatura della signora Palin. Il mio augurio e la mia speranza profonda è che vinca Obama. Allora, abbiamo sentito quindi Fiamma Nera e Stein PDL, vicepresidente Commissione Esteri, e Giovanna Melandri del PD. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.